Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Patrick Fogli, un noto giallista italiano che ora è in libreria con Non voglio il silenzio, il romanzo delle stragi pubblicato da PM e scritto insieme a Ferruccio Pinotti. Allora Patrick, partiamo innanzitutto dal personaggio principale di questo romanzo. Chi è questo ex giornalista e che cosa deve indagare? È un ex giornalista che è molto ex, direi, perché ha abbandonato la professione ormai da un sacco di tempo, che riceve una strana telefonata da una ragazza che non conosce, che lo invita a un appuntamento in un'aula di tribunale per il mattino dopo. Lui sostanzialmente ci va perché non ha niente da perdere, perché non sa sostanzialmente cosa fare della sua vita. E questa ragazza però gli muore davanti, perché nell'aula di tribunale in cui ha l'appuntamento si presenta un signore che uccide lei, uccide il suo cliente, questa ragazza è un avvocato, e i due poliziotti che scortano l'imputato in aula e si spara, dicendo di aver ucciso un infame. L'unica cosa che il nostro personaggio riesce a recuperare dalla ragazza morente è un nome, Solara, che lo riporta a una vecchia indagine che sua moglie, anche lei giornalista, conduceva all'inizio degli anni 90 insieme al padre, diciamo uno dei padri del giornalismo italiano, è il padre del nostro protagonista, e che aveva appunto a che fare con questo nome che lui aveva sentito, si ricorda di aver letto negli appunti della moglie. E da lì, un po' per curiosità, un po' per capire perché questa ragazza è morta, un po' per capire perché è morta la moglie pochi mesi dopo quell'indagine in un incidente stradale che non gli torna particolarmente normale, finisce invischiato nella stessa storia su cui indagavano suo padre e sua moglie. Che sono storie che hanno a che fare con dei fatti reali, perché certo. Ricordiamo, questo è un romanzo di finzione, ma ha a che fare con dei fatti reali, che sono poi le stragi di mafia del 93. Sì, sono le stragi di mafia del 93 e prima ancora del 92. Diciamo che l'evento centrale che sta dietro a Non voglio il silenzio è la morte di Paolo Borsellino in Via D'Amelio. Ed è il giorno preciso della morte di Borsellino, appunto la moglie del protagonista e il padre del protagonista erano a Palermo. Glieli hanno mandati, erano lì per caso, insomma questa è un'altra storia, forse parte della storia del romanzo. Però da lì parte tutto, da lì parte il racconto appunto dell'indagine di sua moglie e il suo tentativo di ritirarla a galla e di scoprire che cosa è successo. In questo romanzo si indagano un po' quelli che sono stati i retroscena di queste stragi di mafia. Ovviamente è un romanzo, quindi è frutto della tua fantasia, ma quanto c'è di vero, quanto c'è di lavoro di inchiesta in questo romanzo? Di lavoro di inchiesta c'è tanto. C'è un filo conduttore che segue in parte si fonda sulle sentenze, perché poi in realtà la maggioranza di questi eventi hanno sentenze passate in giudicato per le stragi del 93, quelle in continente, quindi Firenze, Milano e le due chiese di Roma, ci sono colpevoli presi, passati in giudicato, sentenze finite. Ci sarebbero, in linea del tutto teorica, molti processi passati in giudicato anche per la morte di Paolo Borsellino, salvo che poi le testimonianze di Spatuzza stanno smontando tutto quanto, in realtà si scopre che quello che si credeva per certo, in realtà tanto certo non è, che c'è dentro un pentito che non è un pentito, che insomma, tutta una serie di cose di cui si legge anche quotidianamente sui giornali. L'idea è di raccontare appunto quel gioco lì, l'idea è di raccontare che cosa è successo in Italia negli anni in cui Tangentopoli smontava quella che noi chiamiamo Prima Repubblica e di scoprire che cosa è successo, di far capire qualche cosa su quello che è successo dietro le stragi di mafia, o perché si sono messe delle bombe in continente, perché ci sono state appunto quelle esplosioni in quegli anni. Ma per intenderci, leggendo questo libro noi scopriamo qualcosa di nuovo su quelle stragi? Leggendo questo libro forse vi fate un'idea del quadro d'insieme. Il problema con questi clima, dell'atmosfera. Del clima, dell'atmosfera e anche di come vanno collocati insieme alcuni dei tasselli che hanno poi composto quegli episodi. A differenza, questa è una cosa che dico sempre, mentre Il tempo infranto, il libro precedente sulla strage di Bologna, cercava di chiarire un po' un mondo, questo è un libro che apre delle domande, che vorrebbe, finisce con una domanda, e se fosse tutto vero, si può dire, tanto non cambia nulla, è un libro che vorrebbe cercare di aprire delle domande, vorrebbe fare in modo che chi lo legge si facesse quella domanda e tante altre, che sono poi, credo, la base per cercare di essere un pochino di più cittadini e un pochino meno telespettatori, ecco, mettiamolo così. A proposito del tempo infranto che era sulla strage di Bologna del 2 agosto dell'80, ormai sembra essere diventato un po' un tuo marchio di fabbrica, questo di creare dei romanzi che sono un mix fra la fantasia e fatti realmente accaduti, soprattutto del periodo del terrorismo. Ormai appunto è un marchio di fabbrica questo, intendi continuare su questa linea? È un caso. Ed è un caso ed è un interesse, nel senso che cerco di raccontare le storie che non sento raccontare. La strage di Bologna è una strage completamente dimenticata, come tutta la stagione dello stragismo italiano. Insomma, i ragazzi di 20 anni non sanno neanche di cosa si parla. I miei coetanei, io faccio 40 anni tra meno di un mese, ne sanno pochino. Era un modo per cercare di recuperare la memoria di quegli anni. Sono molto convinto che se non ti ricordi che cosa sei stato, difficilmente potrai capire cosa sei e nemmeno dove stai andando. Questo è una vicenda nata veramente per caso durante uno scambio di SMS con Ferruccio, che conosco da prima della preparazione del tempo infranto, su una storia che a questo punto abbiamo avuto in mente tutte e due, abbiamo detto bisognerebbe scriverla. Scrivo quello che non riesco a trovare come lettore, scrivo le storie che mi interesserebbe scoprire o sapere o sentire raccontare che nessuno mi racconta. È un caso che abbiano a che fare, col terrorismo, con episodi di cronaca, ormai di storia di questo paese. Il prossimo potrebbe essere tutt'altro. Quindi il prossimo libro non è detto che sia ispirato a fatti reali? No, potrebbe non essere ispirato a fatti reali, non così strettamente. Potrebbe essere ispirato a prendere uno spunto da un fatto reale. Mi interessa raccontare questo stranissimo mondo in cui viviamo, questo sì. Questo mi piacerebbe raccontarlo. Diciamo che ho in mente una storia molto più sull'oggi, dopo averne fatta una su ieri l'altro e una su ieri, insomma. Senti, questi romanzi che sono appunto un mix fra realtà e fantasia si sostituiscono un po' al giornalismo d'inchiesta. Molti in Italia dicono si fa poco giornalismo d'inchiesta, a questo punto questo tipo di romanzi ha preso un posto che era stato lasciato vacante. Ma sai che io non credo che si faccia poco giornalismo d'inchiesta, io credo da un certo punto di vista che si faccia poco giornalismo d'inchiesta buono, perché di inchieste in giro ce ne sono tantissime. Poi forse sono un po' spostate, non sono più sui quotidiani, per una questione di spazio, per una questione di interessi, lasciamo perdere un altro discorso, si sono spostati in librerie. Le librerie sono piene di inchieste, ce ne sono ovunque di inchieste. Il problema è che spesso le inchieste che trovi non sono inchieste, assomigliano a quelle che in università si chiamano tesi compilative. Fare un'inchiesta è un'altra cosa. I giornali non hanno più tanto tempo, la televisione, chi fa inchieste in televisione si è creato la sua nicchia molto forte, però le vere inchieste, quelle che sono trasversali, quelle che dovrebbero passare, non si fanno più, pur facendo tante inchieste in Italia. Il romanzo è facile da questo punto di vista, il romanzo è trasversale. In un romanzo puoi raccontare la realtà anche oltre la sentenza passata in giudicato, l'evento in sé per sé. Puoi cercare di fare un quadro. L'inchiesta non ha il tempo, la possibilità, né forse l'interesse di fare un quadro generale. Qua ti puoi permettere delle libertà che in un'inchiesta non ti puoi permettere, puoi cercare di insinuare dei dubbi che in un'inchiesta non ti puoi permettere, puoi cercare di stare, di disegnare un mondo, il mondo intorno al fatto in sé. E l'inchiesta è ovviamente più limitata sul pezzo, deve stare per forza sul qui e ora, o su quello che è successo veramente, o meglio, su quello che è stato accertato che sia successo veramente. Il titolo di questo romanzo, Non voglio il silenzio, sottotitolo Il romanzo delle stragi, è un titolo molto incisivo da chi è stato partorito, ecco. Ma il titolo è una seconda scelta, la prima è nel libro, è un titolo che mi piace, è venuto, non ricordo esattamente se è venuto a me, se è venuto a Ferruccio, se è venuto a tutti e due, però è piaciuto subito, un po' perché dà l'idea del perché nasce la storia e succede quello che succede nel libro. È un tentativo proprio di evitare l'insabbiamento della verità, della notizia, del fatto in sé. Insomma, poi non è per forza un silenzio nel senso di assenza di rumore. Spesso e volentieri silenzio è che di rumore ce n'è troppo, per cui quello che c'è in mezzo non riesci più a sentirlo. Siamo da questo punto di vista, siamo immersi in questi silenzi, nelle cose che non si raccontano, nelle cose che si raccontano ma solo da una parte, nel tentativo di mescolare il vero, il verosimile, la finzione, insomma, basta guardarsi intorno.